Cioè, se il popolo è questo, cosa vogliamo non permettere, no? Oi, Che non ho. c'è nessuno che non... Oi, ha, ha. Appunto, non c'è nessuno che permette o non permette, ci sono questi, questo è il popolo italiano.